Letture di Radio 24. Dopo l'ennesima rissa nei cieli, provocata dal solito cafone che allunga il sedile e invade lo spazio altrui, alcune compagnie aeree tornano a prendere in considerazione l'idea di eliminare i sedili reclinabili. È quando si viaggia in aereo, classe economica, che vale di più la legge fisica sull'incompenetrabilità dei corpi solidi, specie se umani. Per un passeggero che allunga il sedile, ce n'è un altro, quello dietro, che per forza si accorcia, e di solito non è lieto di farlo. La difficile convivenza negli spazi ristretti di un aereo, nel caso un Boeing 767 della United Airlines, ha provocato una rissa nei cieli che ha costretto il pilota all'atterraggio di emergenza. Scortato da due caccia dell'Air Force in caso fosse un allarme terroristico mascherato da zuffa. Di questo invece si trattava. Il volo 990 era appena decollato dall'aeroporto Dulles di Washington, quando tra due dei 144 ospiti a bordo è cominciata una discussione animata. Il primo, infatti, che voleva dormire, sistemati coperta e cuscino, ha buttato giù il sedile. Il secondo, seduto alle sue spalle, non ha apprezzato e gli ha intimato di ritirarlo immediatamente su. Il battibecco non si è ricomposto, anzi, è degenerato in una scazzottata da saloon. Una hostess e un terzo passeggero hanno provato a calmarli, non è stato possibile. Perciò il pilota ha fatto dietro fronte e intorno alla mezzanotte si è riabbassato su Washington, seguito a vista da due Fighting Falcon F-16. Senza poter però atterrare subito perché con il serbatoio quasi pieno di circa 57 tonnellate di carburante, la manovra sarebbe stata troppo pericolosa. Perciò il jet è stato costretto per buoni 30 minuti a volare in cerchio sulla capitale per scaricarne almeno una parte. I due passeggeri, inquieti e maneschi, sbarcati a terra, rischiano una multa salata e fino a 6 mesi di reclusione. Pochi mesi fa, un episodio analogo. Un sedile reclinato di colpo aveva preso in pieno l'occupante di quello posteriore, passato anche lui alle mani. Su alcune compagnie low cost, il problema è eliminato alla radice, perché gli schienali restano fissi. La Ryanair, sempre estrosa, per contenere i costi, propose di tenere le persone direttamente in piedi. Le altre sono più attente al comfort dei clienti, non esistono però regole scritte sulla reclinabilità. Dall'Italia spiegano che chi acquista un biglietto paga anche la possibilità di allungare la poltrona. Soltanto durante i pasti il personale di bordo invita a tirarlo su per consentire a tutti di mangiare senza contorcersi. Per il resto ci affidiamo alla buona educazione dei passeggeri, che non sempre li assiste. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovanna Cavalli, Il sedile reclinabile della discordia. Quale diritto è più forte in volo? Dal Corriere della Sera, del 3 giugno. Letture di Radio 24. Treni sempre in ritardo, aria condizionata che non funziona e il solito carrettino col caffè surrogato che passa tra i sedili. Piero Ottone racconta come, a dispetto delle innovazioni tecnologiche, Trenitalia sia sempre la stessa. Di tanto in tanto capita anche a chi non è viaggiatore abituale di fare un viaggio in treno e subito si ritrovano le vecchie usanze. Ormai fanno tenerezza. Ecco i 5 o 10 minuti di ritardo, quando va bene. I vetri sono opachi e polverosi, come sempre. Una voce baldanzosa annuncia all'altoparlante l'esistenza sul treno di un bar mobile. Promette panini, biscotti, bevande calde e fredde. Sprizza ottimismo. Passa parecchio tempo. Infine si percepisce un mesto campanello che lentamente si avvicina. Il carrello procede faticosamente tra i sedili, distribuisce merce poco appetitosa. Si va al gabinetto, si ritrovano le solite scritte in italiano, francese, inglese, tedesco, coi soliti errori. Si stenta a credere che Trenitalia non li abbia mai scoperti. Ma qualche novità c'è. Qualche istante prima di ogni fermata, una voce ossessiva ripete che è vietato salire o scendere col treno in corsa, o scendere sul marciapiede sbagliato. Ma chi sono i matti che salirebbero su un treno in corsa? Lo stesso ammonimento è ripetuto in inglese, e qui l'inglese è recitato in perfetta dizione oxoniana. Care ferrovie, cari treni di sempre, casalinghi e assurdi allo stesso tempo, ma devo ammettere che a Trenitalia sono anche sfortunati. Succede infatti, durante il mio viaggio, che dalle 5 feritoie sotto il finestrino esca un getto potente di aria calda, sebbene fuori splenda il sole, perché è finalmente primavera. Passa un quarto d'ora e il getto d'aria diventa gelido, una Siberia. Il freddo continua per un altro quarto d'ora, poi l'aria è di nuovo calda. Così per tutto il viaggio, caldo e freddo si alternano. Proprio sfortunati a Trenitalia. Non credo che l'ingegner Moretti, il gran capo di Trenitalia, lo faccia apposta. Evidentemente gli hanno venduto, magari a caro prezzo, un meccanismo difettoso. Non stento a credere che lui sia innocente, però a Trenitalia un po' sfortunati lo sono. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Piero Ottone, Povera Trenitalia, così imbranata, così sfortunata, da venerdì di Repubblica del 3 giugno. Abbiamo liberato Milano era lo slogan urlato dai sostenitori di Pisapia all'indomani della vittoria elettorale. Ma gli estremisti che lo hanno votato ora vorrebbero liberare Milano anche dagli ebrei, in nome di un antisionismo di sinistra che sta mettendo in imbarazzo i nuovi sindaci. Tra i suoi primi interventi, al neosindaco Pisapia toccherà contrastare gli intolleranti che vogliono impedire a Milano di ascoltare le parole di David Grossman, di apprezzare il concerto di Noah, di illustrare in una mostra documentaria le architetture dei kibbutz, e solo perché hanno a che fare con Israele. E Israele, secondo gli oltranzisti dell'antisionismo più prepotente, non può contaminare Milano. Pisapia ha già detto che Milano non può venire meno alle ragioni dell'ospitalità. Parole coraggiose che aizzeranno la rabbia dei boicottatori di professione. Una manifestazione già programmata che dal 13 giugno farà di Milano un crocevia di scambi politici, culturali, commerciali e di amicizia tra Italia e Israele viene presa a bersaglio dall'estremismo anti-israeliano e raffigurata come un'invasione. Circolano manifesti in cui una bandiera con la stella di Davide sembra schiacciare con la sua arroganza il Duomo. Si grida no all'occupazione israeliana di Milano. Ricorda qualcosa questo atteggiamento incendiario contro chi viene considerato un nemico assoluto che minaccia l'integrità di Milano? Ha ragione Cinzia Leone sul Riformista a notare che, dopo la martellante campagna elettorale che la voleva oggi invasa dai Rom e domani dagli islamici, sentire la città liberata da Pisapia a rischio invasione israeliana ha del ridicolo e del grottesco. Ma quella stella di Davide agitata come una minaccia, la sua identificazione con quanto di più oppressivo esista al mondo è anche l'ennesima prova che i confini tra antisionismo e simbologia antisemita sono labili e fragilissimi. Tocca a Pisapia tracciare una linea di demarcazione con chi spende ogni sua energia in una guerra santa contro lo Stato di Israele, non contro le singole politiche dei singoli governi di uno Stato che ovviamente è sottoposto alla libera e severa critica dell'opinione pubblica internazionale, come ogni altro governo democratico, ma contro l'esistenza dello Stato di Israele, delegittimato per il solo fatto di esistere e dunque da cancellare, nella realtà storica e anche nei suoi simboli, come quelli che verranno esibiti a Milano e che gli intolleranti considerano un'offesa per il solo fatto di essere liberamente esibiti. La virulenza del fondamentalismo antisionista, del resto, sprigiona una veemenza intimidatoria che non conosce limiti e non risparmia nemmeno le icone della sinistra. Solo perché ha rivolto un saluto all'ambasciatore di Israele in Italia, Nikki Vendola è stato fatto oggetto di insulti velenosi e di attacchi violentissimi nei siti cosiddetti anti-imperialisti. Qualche mese fa anche Roberto Saviano venne trattato da complice degli assassini solo perché aveva manifestato le ragioni del suo attaccamento allo Stato ebraico in un convegno a favore della democrazia israeliana. Nessuno tra gli antisionisti che divulgano un'immagine criminalizzante e mostruosa di Israele risparmierà Pisapia se, come appare evidente, il neosindaco di Milano si rifiuterà di accodarsi alle minacce di chi promette di mettere a ferro e fuoco la città, quando la stella di Davide, nei prossimi giorni, potrà sventolare liberamente in piazza, onorando impegni presi da mesi. Per questo la sua presa di distanza da chi sta per mettere in scena la solita ripetitiva kermesse anti-Israele varrebbe come un doppio gesto di coraggio, come contrasto alla demonizzazione di Israele e come critica a un modo di fare che coinvolge frange di una sinistra che lo ha sostenuto nella sua battaglia per scalzare la destra dal governo di Milano e che dagli avversari sono state indicate come la prova della deriva estremista di Pisapia. Un doppio gesto scandito nel nome della tolleranza, valore non negoziabile. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pierluigi Battista «L'antisionismo della sinistra estrema mette alla prova i nuovi sindaci» dal Corriere della Sera del 6 giugno.